Ora è in onda Bollettino di guerra. Per tutti voi che avete un solo dispiacere: avere una sola vita da offrire al proprio paese. Lo storico programma delle truppe in guerra che da anni diffonde nel mondo le canzoni di tutti i tempi, forma ed informa il soldato sul suolo straniero e gli offre un'occasione per conoscere la realtà e seguirne gli eventi più interessanti. Rubrica di informazione radiofonica dedicata, dentro e fuori dai nostri confini, con il contributo fondamentale della Thank You Airlines. Le rubriche di oggi sono: le dediche dei nostri soldati, la rassegna stampa, i fatti salienti del giorno d'oggi, che domani saranno i fatti di ieri, ed infine l'ultima puntata dell'avvincente radiodramma Johnny che salvò la democrazia. Uno sguardo lucido e distaccato sul complesso fenomeno bellico. Ma prima, i 30 secondi dello spirito. I 30 secondi del catechismo per il sollevamento spirituale dello spirito delle truppe vi sono offerti dalla Thank You Airlines, che vola sempre in alto. Ecco come avvenne la nascita di sua madre. Essendo Giuseppe, prima che si trovò incinta, lo Spirito Santo era giusto e non voleva ripudiarla. Decise di licenziarla. Mentre però gli apparve in sogno Giuseppe, figlio della madre Davide, essa partorirà un figlio e lo chiamerai Popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne per mezzo della madre del profeta Davide, che sarà chiamato Emanuele. E alcuni giunsero da Oriente. I 30 secondi del catechismo per il sollevamento spirituale dello spirito delle truppe vi sono stati offerti da Thank You Airlines, che vola sempre in alto, in collaborazione con l'Associazione per la cura delle tombe dei soldati. La Thank You Airlines organizza viaggi individuali, tutto compreso, alle tombe dei soldati nei teatri di guerra. La Thank You Airlines offre l'opportunità di porgere il doveroso omaggio ai resti del caduto, proponendo ai clienti un servizio con automobile a disposizione per la visita al cimitero. Il tutto in comode rate e senza nessun pagamento anticipato. Disponibile anche un interprete come servizio aggiuntivo. Abbinando l'esperienza di aerolinea alla competenza tecnica che le è propria, la Thank You Airlines è in grado di offrire servizi e soluzioni personalizzate che consentono al padre o alla madre dell'eroico caduto di focalizzare l'attenzione su un unico fornitore e minimizzare i costi di outsourcing. Ed ora, uno sguardo veloce alla rassegna stampa. I fatti di oggi, che domani saranno i fatti di ieri. Teheran in piazza, sfida al regime, spari sulla folla, un morto. Scandalo internazionale, aperta un'inchiesta delle forze militari che fanno autocritica e si interrogano su come sia possibile sparare su una folla e uccidere un solo manifestante. Passiamo allo sport. Un paraguayano di 33 anni ha ucciso con un colpo di pistola il fratello 12enne. Tutta colpa di una discussione calcistica scatenatasi tra i due dopo il derby. Indagato il questore e sua cognata. Per l'anniversario dell'arma, carabinieri in festa nel segno della solidarietà. Ospiti speciali Giancarlo Magalli, la nuotatrice turca Chantal Eclesio, Alberto Moravia, i suoi 8 cani, il mostro di Marcinelle, l'ambasciatore inglese Edward Chaplin e il bebè rubato in braccio alla madre. Concludiamo con l'oroscopo. Ariete. Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti la rettifica e la riapertura dei termini. Verranno momenti migliori. Toro. Fino al 26 luglio al Vittoriano, in via San Pietro, l'emergenza sanitaria del 118. È richiesta più presenza in famiglia. Gemelli. Potete ancora contare sul proibito, anzi dovreste approfittarne, anche laddove riuscite a tenere a freno la vostra aggressività. Cancro. Nonostante il protezionismo culinario, vi occorre tanta pazienza. Accettate le critiche e arginate il coraggio. Leone. In nottata fenomeni in estensione con acquazzoni sparsi in lieve flessione. Concedetevi qualche lusso. Le dediche dei nostri soldati. Com'è strano l'amore. Mi fa soffrire. Mi fa il cuore a pezzi. Ma mi dà anche il coraggio per continuare a combattere e dire Lo faccio solo per amore. Joe LaManna, tiratore scelto. Cerco parole che esprimano il mio desiderio verso di te, ma non le trovo. Cerco parole che esprimano la mia ebbrezza, ma non le trovo. Sto cercando di dirti che ti amo, ma non trovo le parole. Dante. L'amore. L'amore è come un'esplosione al centro di Baghdad. Se ti allontani non senti il suo calore, se la oscuri si spegne. Se ti avvicini troppo, ti bruci. Baci. Antonello. Socialismo ed alterità. Perché non coltivare questa utopia? Torniamo insieme, patatuffo mio. Tonino. La guerra vuol dire fiducia e rispetto. Fare la guerra è ragionare in termini di noi e non in termini di io. Fiorella. Il mio cuore è un giardino rigoglioso di ricordi. Quel giardino non contiene una rosa. Quel cuore non contiene un amore. Don Sebastiano. Ed ora la dedica. Il padre Abramo dedica al figlio Isacco queste parole e una bella canzone. Figlio mio, la guerra è l'igiene del mondo ed io amo l'igiene. Il figlio Isacco, che ha perduto l'apparato fonatorio durante un rastrellamento, risponde: Bello come una mano che graffia la schiena di chi sa. Ed ora la rubrica più attesa. Sta per andare in onda l'ultima puntata del radiodramma Johnny che salvò la democrazia. Uno sguardo lucido e distaccato sul complesso fenomeno bellico. Nelle puntate precedenti, il soldato Joe Bonham da Shale City, non appena giunto sul teatro di guerra, viene centrato da una bomba. Sopravvissuto per miracolo, si risveglia in uno stato di semicoscienza in ospedale. Presto scoprirà di aver perduto, a seguito dell'esplosione, gambe, braccia, vista, udito e parola. Nell'ultima puntata, riuscirà a comunicare con il mondo esterno? E il mondo sarà in grado di capirlo? Non perdete quest'ultima puntata che vi è offerta da Thank You Airlines, che vola sempre in alto. Questa storia è durata anche troppo. I miei moncherini sono ormai cicatrizzati, le bende me le hanno tolte, significa che è passato del tempo. Molto tempo. Ormai è venuto il momento di uscire dal torpore e pensare. Devo pensare a me, a Joe Bonham e a quello che farò. Perché ora devo ridimensionare tutto il mondo. È come se un uomo venisse ricacciato dentro il ventre di sua madre. Sono impotente. Mi hanno inserito un tubo nello stomaco attraverso cui mi nutrono. È esattamente come stare dentro l'utero, solo che il bambino che sta nel ventre della madre aspetta il momento di cominciare a vivere. Io rimarrò in quest'utero per sempre. Sempre. È una cosa da non dimenticarsi mai. Questa è la mia condizione da adesso in poi, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Non posso più dire «Ciao, come stai? Ti amo». Non camminerò più con le mie gambe, niente più corse. Non potrò più stirarmi le braccia. Non sarò più stanco. Mai più. Se qui prende fuoco, io non posso far altro che starmene qui e lasciarlo bruciare. E io con lui, senza far niente. Sono tornato nell'utero per sempre. Non è un sogno. È la realtà. Due per due fa quattro. 4 per 4, 16. 16 per 16, 256. 256 per 256 fa... Ah, è anche troppo. È questo il guaio con i numeri. Diventano grandi e non puoi manovrarli. E anche se ci riesci, non è che ti portino a granché. I pianeti sono 8. La Terra, Venere, Giove, Marte, Mercurio. Ne mancano 3. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Non uccidere, onora il padre e la madre, non desiderare la mucca del tuo vicino né il suo asino o il suo servitore, né tantomeno la sua servetta, non rubare, non commettere adulterio. Ne mancano. Maledizione, non so niente. Ma perché non mi hanno insegnato qualcosa che mi possa ricordare? Sono qui che non posso far altro e non ho niente a cui pensare. Sono ignorante come un bambino di 2 anni. Devo concentrarmi. Devo cominciare dal principio. Devo cominciare con un'idea. Ciò che conta è il tempo. Ricordo di aver studiato a scuola che il primo uomo che aveva cominciato a pensare aveva pensato al tempo. Avevano studiato le stelle cercando un modo per misurare il tempo. Avevano stabilito che c'erano le settimane, i mesi e gli anni. Ora io ho lo stesso problema. Io so che il tempo è la cosa più importante del mondo. Se perdi il conto del tempo, allora sei perso anche tu. È l'ultima cosa che ti tiene aggrappato al resto del genere umano, e se perdi pure quella, rimani davvero solo. Tutto quello che posso fare è sentire con la pelle. Quando la temperatura cambia dal freddo al caldo, allora è il momento in cui si leva il sole e che comincia un nuovo giorno. E quando sentirò quel cambiamento di temperatura, allora sarà l'alba. Poi devo contare le visite dell'infermiera tra un'alba e l'altra e avrò il numero delle sue visite giornaliere, così potrò misurare il tempo. Sì, potrò contare il tempo dal numero di visite dell'infermiera. funzionare. E può non funzionare. E se lo sbalzo di temperatura fosse già passato, io non me ne fossi reso conto. Ah, non dire cretinate, Joe. Concentrati. Non puoi perdere l'attimo. Devi afferrare lo sbalzo di temperatura. L'unica cosa che puoi fare è aspettare e ascoltare con la pelle. Devi afferrare ogni secondo del cambiamento che si sta operando, ogni minimo movimento del tempo. Ecco. Comincia a diventare più veloce. Sempre più veloce. Sono in una stanza d'ospedale, ma è come se sentissi una fiammella. Io sento il collo bruciato, scottato. Il sole è qui nella stanza, ho ricatturato il tempo. Ho vinto la mia battaglia, Dio mio, grazie. Ho voglia di cantare, fatemi cantare. Dio mio, grazie. È l'alba. Adesso ce l'ho e non potranno più portarmela via. Ho visto l'alba di nuovo e d'ora in poi la vedrò tutte le mattine. Grazie, Dio. Grazie. Sono dato da fare. Ho imparato molte cose. So distinguere il giorno e la notte. So con esattezza quando l'infermiera viene a lavarmi, a cambiarmi le lenzuola. Mi spazientisco pure se ritarda. E poi so distinguere le mie infermiere. Quella di giorno è fissa, mentre quelle di notte cambiano. L'infermiera di giorno ha mani abili, esperte, un po' indurite. Mani grandi, consumate, nodose, che potrebbero appartenere a un uomo che abbatte alberi o che lavora la terra. La immagino una donna anziana con i capelli grigi. Dalla porta viene sempre direttamente fino al letto con quattro passi sicuri. Perciò il letto deve essere a circa 3 metri dalla porta. I suoi passi sono più pesanti di quelli delle altre infermiere. Deve essere un tipo robusto. L'infermiera di giorno ha un modo di fare molto spiccio. Flip e mi gira su un fianco. Ush e il lenzuolo è teso. Flop e mi ritrovo supino. E sono già lavato. Mi piace questa vecchia infermiera che sa fare bene il suo mestiere. Io mi dimeno sempre per farle capire che sono contento di vederla. Lei mi dà qualche colpetto sullo stomaco, mi passa la mano tra i capelli sottili come per dirmi «Ciao, grazie, come va?» Le infermiere del turno di notte non sono mai le stesse. A volte ne cambiano 2 o 3 nel giro di una settimana. Quasi tutte fanno più passi dell'infermiera di giorno per arrivare dalla porta al letto e sono più leggere nel camminare. Hanno mani morbide di solito e umide. Quel tanto da non scorrere bene lisce sul corpo. Sono giovani. Quando arriva una nuova infermiera è sempre la stessa cosa. Tira indietro le coperte e per 1 minuto o 2 non osa muovere un dito. E io lo so che mi guarda e che probabilmente le viene da star male. Una volta una di loro si volse e scappò fuori dalla stanza e non tornò mai più indietro. E così non mi fece urinare e io bagnai il letto. Ma non le servo rancore per questo. Un'altra pianse. Sentì le sue lacrime sul petto della camicia da notte. Mi colpì molto. E quando se ne andò, beh, mi dispiacque. Doveva essere giovane e bella. I want everybody to get up out of your seat. Come on, y'all, come on. Put your hands together. Get up. And your arms together. Get up. Che i soldati che si idratano bevendo Senchio hanno la sicurezza di reintegrare gli elettroliti essenziali e i liquidi persi con il sudore, rifornendo i muscoli per la marcia e l'assalto alla baionetta o per la gara successiva. Ce ne sono per tutti i gusti e di tutti i sapori, dal cioccolato al cocco alla vaniglia, tropica al banana, viola ciocca, vetro smerigliato, peste e corna. Ricchi in misura e mistura diverse di proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali. Unica eccezione, il fruttosio. No, signora, no. No, suo figlio non lo conoscevo, no, signora. L'ho conosciuto la sera che è morto, signora. Suo figlio Lazarus. E tutti conoscevano suo figlio Lazarus, signora, tutti tranne me. L'ho visto per la prima volta la sera che è morto suo figlio Lazarus. Alto 20, 30, 40, 50 metri, Lazarus. Fatto d'acciaio e di bronzo, Lazarus. Che la sera c'è la luna piena, signora. E non bisogna girare con la luna piena. Che la luna è un amante, una strega. La luna è una specchio a cui volgere le spalle. La luna è una maglia rotta nella rete dei misteri. E invece Lazarus vagava quella notte e senza curarsi delle trincee, del filo spinato e dei bavaresi dall'altra parte, che vedevano un gigante alto 20, 30, 40, 50 metri fatto d'acciaio di bronzo, magari nella notte con la luna piena, che non si gira con la luna piena, santo Dio, come fosse ubriaco della vita, della guerra, della luna, signora. Qualcuno dice fosse impazzito, qualcuno che volesse disertare. Il fatto è che un bavarese dall'altra parte imbracciò il fucile, prese la mira e sparò un colpo. E il colpo risuonò nella notte bianca, un colpo secco, con l'eco di tutta la vallata, un colpo. E Lazarus si piantò, gli occhi nella nebbia, cercando di capire cosa lo avesse fermato. Ci fu un attimo di silenzio, ma dopo fu come se tutta la truppa nemica cominciasse a sparare, fu come se tutta la Bavaria sparasse, fu come se tutta la Germania intera sparasse, fu come se tutti gli uomini del mondo sparassero sul corpo gigante di Lazarus. E il corpo cadde sul filo spinato col braccio appeso, come stesse dando un'indicazione. E il suo corpo ora era un corpo normale, anzi piccolo, molto piccolo, un corpo minuscolo e di carne, di ossa, come tutti noi. Ma in guerra non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per piangere, signora. E noi dimenticammo suo figlio lì sul filo spinato. Ma quando il vento cambiava, allora, quando soffiava la sera, allora saliva in trincea un tanfo micidiale, una puzza indicibile, signora, che a me dispiace dirlo, ma suo figlio puzzava, che Dio lo maledica, signora. Una puzza indecente, un miasma senza ritegno. Così un giorno venne il colonnello era uno che teneva la forma. Ci raggiunse per farsi un discorso serio, molto serio. Ci avrebbe detto delle parole a cui aggrapparci, sarebbero state la nostra speranza. E noi ci radunammo. E il colonnello che teneva la forma era pronto. Con tanta pazienza avevamo aspettato e con buona fede saremmo stati ad aspettare. Ci avrebbe ricordato che stavamo salvando la democrazia. Ma non poté farlo quel discorso, che il vento portò un tanfo micidiale, una puzza indecente, un fetore senza ritegno. E Cristo, ma che cos'è questa puzza? Disse il colonnello che teneva la forma. E allora il caporale, che invece non ci teneva, gli raccontò di Lazarus, della luna, del colpo solitario del bavarese e di tutti gli uomini che si erano accaniti sul corpo di suo figlio. E il colonnello disse: molto male per il morale della truppa, porti fuori una squadra stanotte e che lo vada a seppellire. Così il caporale disse: ma signore, la situazione non è molto allegra, ci sono i bavaresi dall'altra parte anche di notte e sono sempre pronti, e sono bavaresi, è vero, ma hanno una buona mira, signore, e io non credo. Due parole di preghiera, lo interruppe il colonnello. Non dimentichi due parole di preghiera. Così uscimmo in otto quella notte e prendemmo Lazarus e facemmo una buca. Il caporale disse una preghiera, ma era come se sentissimo dei fucili puntati su di noi. Allora io dissi: più veloce, caporale, più veloce. E il caporale saltò subito alla parte del riposo in pace, amen. E io le chiedo scusa, signora, se suo figlio non ha avuto un funerale come lei avrebbe voluto. Il giorno dopo i crocchi cominciarono a lanciar bombe intorno al reggimento, ne lanciarono a decine, come una pioggia d'agosto. Così una granata andò a finire proprio dove avevamo seppellito suo figlio, signora, e il corpo di Lazarus volteggiò per l'aria come un fiocco di neve e cadde per la seconda volta sul filo spinato. Così quando il mattino seguente venne il colonnello e respirò una boccata di Lazarus, chiamò il caporale e urlò: caporale, quando io ero un subalterno, un ordine era un ordine e non un semplice suggerimento. Sì signore, disse il caporale. Bene, aggiunse il colonnello, stanotte uscirete con una squadra e seppellirete quel cadavere puzzolente a 2 metri di profondità. Così disse: cadavere puzzolente, signore. Ma noi della squadra uscimmo tutti volentieri questa volta, anche io che non lo conoscevo. Così lo prendemmo, lo avvolgemmo in un lenzuolo, scavammo una buca di 2 metri di profondità e il caporale si mise a leggere il servizio funebre. Ma dovette interrompersi quando dalla collinetta cominciarono ad arrivare i colpi del nemico. Quei bavaresi, signora, stavano sparando. Allora il caporale gridò: al coperto, ragazzi! E noi lasciammo il lenzuolo e suo figlio e corremmo al coperto, mentre un colpo beccò Lazarus e il corpo di suo figlio fu ributtato per la terza volta sul reticolato. E allora cominciammo a sparare anche noi sul corpo di suo figlio per farlo ricadere giù. E lo colpimmo a lungo e alla fine ce la facemmo. Continuava a emettere un cattivo odore, ma adesso almeno non era più sul filo spinato. E stavolta decidemmo di dimenticarlo davvero. Spiace dirlo, signora, ma in guerra non c'è tempo per pensare. Nonostante i nemici tutto intorno, i continui sbalzi offensivi e le susseguenti timide ritirate, il sapone Thank You rimane incrollabilmente da 20 anni l'unico celebre sapone igienico e delicato sulla pelle, a casa come sul campo, ottimo per la cura dell'acne, indicato come surrogato del basilico, può essere d'aiuto anche nel creare una maschera facciale, mischiando il bianco dell'uovo con il succo di limone. Solo così i nostri combattenti si sentono puliti, rinfrescati e come rinati. Il sapone Thank You è acquistabile ovunque, 55 centesimi il pezzo. Da ragazzo, tanto tempo fa possedevo un apparecchio radiotelegrafico. Io e Bill Harper parlavamo così l'un l'altro. Punto, linea, punto. Specie nelle sere di pioggia quando non ci lasciavano uscire e non c'era niente da fare. In quei momenti io e Bill Harper ci parlavamo tramite i punti e le linee. E ci divertivamo un mondo. L'alfabeto Morse. Me lo ricordo ancora. Ho sempre preso in considerazione le vibrazioni che vengono verso di me. Io devo cominciare a considerare la possibilità di vibrazioni che partano da me. Non devo far altro che starmene straiato e trasmettere punti e linee all'infermiera per ristabilire il contatto col mondo. È il mio modo di parlare. Ho catturato il tempo, ora farò la cosa più grande di tutte, parlerò e farò un altro passo in avanti in questa mia lotta per tornare in mezzo alla gente. Sollevo la testa dal cuscino e la lascio cadere. Batto SOS sul cuscino. Punto, linea, punto. SOS. Beh, se c'è qualcuno al mondo che ha bisogno d'aiuto, quello sono io. Beh, sto chiedendo aiuto. SOS! Aiuto! La porta della stanza si spalanca. I passi dell'infermiera si accostano al letto. Batto più freneticamente. Sto sul punto di riscoprire il mondo, di ritrovare una grossa parte della vita stessa. SOS! SOS! Sento l'infermiera in piedi accanto al letto che mi guarda. Non capisce. Ma come fa a non capire dopo tutto quello che ho passato prima di fare questa enorme scoperta? Ma come fa? Continuo a battere la testa finché i muscoli del collo non mi fanno male. Finché la testa non mi fa male. Finché non mi pare che il petto mi scoppi per la voglia che ho di urlare, di spiegarle cosa diavolo sto cercando di fare. Eppure la sento accanto al letto, immobile e meravigliata. Mi posa una mano sulla fronte. La tiene per un attimo. Comincia a carezzarmi la fronte con gesti lenti, garbati, mentre io continuo a battere furiosamente. SOS! SOS! Allora le passa la mano attraverso i capelli. Io avverto della pietà nella gentilezza di quel tocco. Ma fin quando la pressione della mano sulla fronte si fa sempre più pesante. L'infermiera sta cercando di stancarmi con il peso della sua mano. Io riprendo a battere con più forza e maggiore frequenza per dimostrarle che il piano non funziona. Le vertebre del collo cominciano a scricchiolare, quasi a rompersi per lo sforzo. La mano dell'infermiera si fa ancora più pesante, il collo più stanco. È stata una giornata lunga. Una lunga, terribile giornata. Batto, ma con meno foga. Ho perso la nozione del tempo. Tutto il lavoro fatto, tutti i calcoli, le congetture, come se non ci fossero mai stati. Ho perso la nozione di tutto, tranne che di battere. Persino mentre dormo sogno di battere, così con l'impressione di farlo anche nel sonno. Non penso più al passato, non prendo più in considerazione il futuro, solo me ne sto qui, straiato, a battere il mio messaggio per la gente del mondo esterno, che non capisce. L'infermiera di giorno fa di tutto per calmarmi. Lei non pensa mai che essere muti è una malattia e che io ho trovato il rimedio per guarire. Lei non capisce che io sono un uomo come tutti gli altri e che so esprimermi. Mi fa dei bagni caldi e io continuo a battere. Mi sistema il cuscino dietro la testa e io continuo a battere. Mi fa dei massaggi con un tocco gentile e io continuo a battere. Poi un giorno ho sentito un cambiamento nel tocco delle sue dita. Non era più gentile. Ho sentito il cambiamento sulla punta delle sue dita, nella tenerezza con la quale mi toccava. Ho sentito pietà ed esitazione. E un grande amore che tutto comprende, un amore che non era né di me per lei né di lei per me, ma piuttosto un amore che abbracciava tutte le creature viventi e che cercava di dar loro sollievo, di renderle un po' meno infelici. Ho sentito il cambiamento attraverso la punta delle sue dita e un breve fremito di disgusto mi ha percosso tutto. Ma nonostante il disgusto io ho risposto al tocco, ho risposto alla pietà del suo cuore che le permetteva di toccarmi così. Le sue mani hanno frugato nelle mie parti intime. Mi hanno infiammato i nervi e io mi sono lasciato prendere dal ritmo che lei mi ha imposto. Mi sono lasciato andare al suo tocco. Addio, a questo siamo arrivati. Questa è la ragione per cui lei crede che io batta. Addio la maledica. Dio la benedica. continua a battere. Continuo, ma per un motivo diverso dal semplice desiderio di comunicare. Io continuo a battere perché non oso fermarmi. Non oso mettermi a pensare di passare tutto il resto della mia vita a battere la testa quando basterebbe un lieve sussurro, un breve movimento delle labbra per dire quello che voglio. SOS, aiuto. Un momento. Sta succedendo qualcosa. Ascolta, Joe. Ascolta. Sì. Hai una nuova infermiera. Questa ha un passo leggero, mentre la mia cara, solita, efficiente, energica infermiera di giorno è pesante. Questa ci ha messo 5 passi per accostarsi al letto, vuol dire che è più piccola di statura, forse più giovane. Devo restare immobile. È come imparare un segreto nuovo, come affacciarsi su un mondo nuovo. Mi sta guardando. Ha tirato indietro le coperte. E come succede sempre, sta qui accanto a me senza muoversi. E mi guarda. Mi posa una mano sulla fronte. Nessuno l'ha mai fatto prima in questo modo. Forse nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo. È come mettere la mano vicino a un tumore scoperto. Eppure, questa nuova infermiera non ha paura. Mi mette una mano sulla fronte, una mano giovane, piccola, umida. Ed è così bello. È come riposarsi. È come dormire questa mano sulla fronte. Devo farmi capire. Può uscire dalla stanza in questo momento e non tornare più. Devo farle capire, ora che è qui. Ora che sente lo stesso che provo io. Devo battere con molta calma e chiarezza e forse lei capirà. Forse capirà ciò che gli altri hanno pensato che non valesse la pena capire. Capirà che sto parlando. Se torna l'altra infermiera posso battere per il resto della mia vita senza che nessuno si accorga mai che sto compiendo un miracolo. Questa infermiera è il mio ultimo appello. Un momento, ma cosa fa? Mi slaccia la camicia da notte. Me la apre sul petto. Muove la punta del dito sulla pelle del mio petto. Ma che sta facendo? Muove il dito, ma non è un movimento senza scopo. Lei sta disegnando qualcosa. Continua a ripetere sempre lo stesso disegno, più e più volte. C'è un intendimento in questa ripetizione. Devo capire il disegno. Due curve o una linea retta? Anzi no, prima la linea retta dal basso in alto e poi un cerchio, anzi un semicerchio, e immediatamente sotto un altro semicerchio. Basta. Ripete lo stesso disegno. Non capisco, fallo ancora. Lei ripete, disegna e mi guarda. Io faccio di no con la testa, lei ripete. Due curve, linea. Due curve, linea. Due curve, linea. Ho capito! È la lettera B! Sì, è la lettera B! Ho capito, è la B, è la B! Continuo a disegnare lettere sul petto, ma ora è facile. Sì, questa è una U, poi una O... Questa è una N? Adesso capisco, continua! Una N, una A, una T, ancora una A, una L, una E. E tutto insieme è Buon Natale. Buon Natale. Ora capisco. La vecchia infermiera è andata a passare le vacanze di Natale. La nuova infermiera, questa giovane, simpatica, bella, comprensiva, nuova infermiera, mi augura Buon Natale! Dio, 4, forse 5 anni, io non so quanti. Tutta la mia fatica, tutto il mio lavoro, ma non importa perché non sono più solo. Adesso qualcuno rompe il muro del silenzio, qualcuno mi parla, è come una luce bianca, un'enorme risata, è Natale, qualcuno mi dice Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Scarsità di grasso. Scarsità di sapone. Scarsità di candele. Quest'anno limitati volontariamente nell'uso delle candele di Natale. La cosa migliore sarebbe che su ogni albero di Natale fosse accesa una sola candela. Il significato e le solennità di questo gesto non verrebbero in tal modo minimamente diminuiti. Per i bambini, invece, il fatto che quest'anno di guerra sul loro albero abbia potuto brillare una sola candela costituirebbe un prezioso ricordo per tutta la vita. Ora o mai più. Non avrò più un'infermiera come questa. Se se ne va ora si porterà con sé tutta la mia vita, tutte le mie grida solitarie, tutto. Ti prego. Ti prego, capisci? Dio, ti prego, falle capire. Sono rimasto solo per anni. Ti prego, falle capire. Io lo so che sei pieno di lavoro, Dio. Lo so che milioni di persone ti pregano tutti i minuti. Lo so che persone più importanti di me ti fanno continue pressioni. Tutte queste cose io le so. E davvero io non me la prendo se tu resti indietro con il lavoro. Nessuno se la prende. Ma ciò che voglio è una cosa così semplice. Io voglio solo che tu prenda questa piccolissima idea che ho nella testa e la metta nella testa di lei, che sta qui a un passo da me. È un'idea così piccola, così leggera, che a te non costa niente, invece per me è così tanto che io non te lo so nemmeno spiegare. Davvero, non ti verrei a scocciare se non si trattasse di una cosa così piccola. Ha capito. E l'infermiera ha capito, guarda. Mi batte il dito sulla fronte, ha capito. Grazie Dio, grazie. Se vedessi dentro di me ti accorgeresti che ci sono coriandoli e bandiere spiegate e musiche trionfali suonate da una banda che marcia dritta contro il sole. Ha capito. Grazie. La porta si apre. Tutto tranquillo. Piccole vibrazioni, due persone. L'infermiera e qualcun altro. Un dito dalle tenebre. Un enorme dito militaresco si va a fracassare sulla mia fronte con la violenza di un battipalo. Il dito batte il suo messaggio. Che cosa vuoi? Che cosa voglio? Che cosa voglio? Ma voi, che cosa mi potete dare? Pensate che chieda delle lezioni di ballo? O vi aspettate delle lamentele perché il letto è troppo duro? Sapete, ultimamente il caffè che mi avete versato nel tubo non era abbastanza zuccherato. Lo spezzatino non era cotto al punto giusto, meglio lasciarlo sul fuoco altri 5 minuti. Cosa voglio? Lo sapete che cosa voglio, razza di imbecilli, lo sapete. Solo che non me lo potete dare. Nessuno può darmelo. Eppure una cosa al mondo che mi potete dare. C'è. Io voglio uscire. Io voglio uscire. Voglio sentire l'aria fresca sulla pelle. Voglio uscire per sentire la gente intorno a me. Non importa se non posso sentirla o se non posso parlarci. Avrò almeno l'impressione di stare in mezzo a loro. Un uomo ha bisogno di stare in mezzo agli altri uomini. Fatemi uscire, io non voglio altro. Sono rimasto per anni chiuso qui. Ora io voglio uscire, fatemi uscire, io devo uscire. Io qui sono come un prigioniero. Voi non mi potete tenere qui dentro. Io non ho fatto nulla di male. Fatemi uscire, riportatemi al mondo. E lo so. Io non sono un uomo normale. Io sono un caso insolito e avrò sempre bisogno di qualcuno che mi curi e ci vogliono i soldi per questo. E lo so, il governo non ha soldi da buttar via. Ma io posso pagare da me le mie spese. Posso fare i soldi io. E invece di essere un peso per il governo, io posso accumulare soldi anche per pagare le tasse. La gente è sempre disposta a pagare per vedere qualcosa di orribile. E probabilmente su tutta la faccia della terra non c'è una sola creatura vivente che sia così orribile come me. Io sarò uno spettacolo educativo. La gente con me forse non imparerà l'anatomia, ma comincerà a capire qualcosa sulla guerra. Signore e signori, la guerra, concentrata in un unico mancone di uomo. Guardatela, perché sia chiara la differenza tra la guerra come la descrivono i giornali e la guerra che viene combattuta nel fango, da soli, contro le bombe. Mettetemi in una cassa di vetro e poi portatemi sulle spiagge, alle fiere agricole, alle feste di beneficenza, portatemi al circo. Sì, portatemi al circo, perché sarò uno spettacolo unico al mondo. Io sono vivo già morto. E se questo non basta ad incuriosirvi, io sono anche qualche cosa di più. Io sono Johnny. Sono l'uomo che ha salvato la democrazia nel mondo. E se neanche questo funziona, allora per la Madonna voi non siete uomini. Arruolatevi nell'esercito. Perché è l'esercito che fa l'uomo. Portatemi in un carrozzone, in un circo, su ruote, lungo le strade di campagna e fermatevi ad ogni fattoria, ad ogni campo e poi suonate il gong perché i contadini con le mogli e i figli accorrono a vedermi e qui c'è qualcosa che l'aratro non rimuove, qualcosa che se non crescerà e non darà frutti, qualcosa che se fosse nata una nostra cavalla, una scrofa l'avreste uccisa all'istante, ma questo non lo si può uccidere perché non è un essere umano, è un cervello e pensa tutto il tempo e che ci crediate o no va contro tutte le regole della natura, anche se non è la natura a conciarlo così. Guardate le sue medaglie, alzate il coperchio della gassa e vedrete chi l'ha conciato così. Questo è puzzo di gloria. Portatemi nei luoghi dove la gente lavora e dite: ragazzi, Eccovi un modo per sbarcare il lunario. Ci sono volte che si mette male, i salari diminuiscono, ma non preoccupatevi perché c'è sempre un modo per rimediare a questi guai. Fate una guerra. I prezzi salgono, le paghe salgono, ne verrà presto un'altra ancora, avrete anche voi la vostra buona occasione. Guardatemi bene da vicino, io non ho più bisogno di nulla. Solo una tazza di brodo 3 volte al giorno. Niente scarpe, niente calze, niente cinema, niente teatro, nemmeno la spesa dal barbiere. Una volta anche io avevo bisogno di tutte queste cose, una volta ero un consumatore, ma non siate verdi di invidia. Anche voi avrete la vostra buona occasione. Portatemi nelle scuole. Da principio i pargoli grideranno, ma poi si abitueranno. È meglio se abituino i da giovani. Da grande diventerete così. E avrete anche voi la possibilità di morire per il vostro paese, ma non tutti sono così fortunati da morire, cari bambini. Alcuni tornano così. Avanti, bambini, guardatemi bene, e poi reciteremo insieme le nostre poesiole. Giro, giro, tondo, bombe sopra il mondo, bombe sulla terra, tutti sottoterra. Caro Gesù bambino, me ne vado nel mio rifugio a prova di bomba, e sotto sotto la notte fonda, e se mi ammazzano mentre che dormo, Gesù bambino, non vali un corno. Chiamate tutti i giovani e dite loro: ecco tuo fratello, ecco il tuo migliore amico, ecco te stesso. Guardatelo quest'uomo, quest'uomo siete voi, questa rana sotto cloroformio con lo stomaco aperto per controllarne il battito del cuore lento e debole, ma sempre vivo. Portatemi davanti all'assemblea, ai congressi, ai consigli di Stato, e prima di votare la guerra, prima che diano l'ordine a tutti i piccoli uomini di cominciare ad uccidersi l'un l'altro, dite all'oratore di battere il martelletto sulla mia cassa, di indicarmi col dito e di dire: questo, signori, è l'unico problema che questo consiglio deve risolvere. Voi siete per questa cosa o contro? E se sono a favore, per Dio, impiccateli, squartateli e disperdeteli in tanti pezzettini per le strade, in mezzo ai campi, e lasciateli marcire. Portatemi nelle chiese, nelle grandi, imponenti chiese, nella mia cassa, per la navata dove re, preti, spose e bambine sono passati tante volte a baciare un pezzo di croce vera dove fu inchiodato un uomo che ebbe la fortuna di morire. Mettetemi sull'altare, invocate Dio, cantate l'alleluia che io non posso cantare, cantate, cantate forte per me e i vostri figli, tutti i vostri alleluia, perché io conosco la verità e voi no, sciocchi! L'uomo è uscito dalla stanza, se n'è andato, è andato a parlare con il suo superiore. Presto tornerà con una risposta. Eccolo, è di nuovo nella stanza. Un dito comincia a battere nella mia fronte la sua risposta. Quello che chiedi è contro il regolamento. Chi sei?